Questa notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Dalle parti nostre si dice che è un giorno buono. È un bel giorno, sono commosso, sono felice. Le istituzioni hanno ripagato un'ingiustizia profonda e quindi adesso si riprende a lavorare giorno e notte con le funzioni e con un'altra volta la fascia da sindaco sul petto. Questo, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, che è stato reintegrato dal TAR, dal Tribunale Amministrativo Regionale, dopo la condanna a 15 mesi di reclusione per abuso d'ufficio. L'aveva condannato il Tribunale di Roma, poi lui ha fatto ricorso, il TAR l'ha accolto. Adesso bisogna vedere poi cosa deciderà la Corte Costituzionale. Per il momento, però, come avete sentito, De Magistris è tornato a fare il sindaco. È un giorno buono, ha detto. Adesso vediamo se un giorno buono è stato anche oggi con le varie notizie. E ce ne sono varie su cui potete esprimere le vostre opinioni. Ritorneremo a parlare di questo momento caldo, autunno caldo, riprendendo questa espressione abusata di fine anni 60, anni 70, con gli scontri che abbiamo visto ieri, con questo diciamo ferita, abisso, mi sembra un po' troppo, che si è creato tra il sindacato e Renzi. E poi c'è anche questa notizia che riguarda la Apple, del coming out del suo amministratore delegato, di questo anche parleremo, il quale ha detto: il successore di Steve Jobs, sono gay e questo è un grande dono che mi ha fatto Dio. Cosa ne pensate di queste vari argomenti e notizie? Potete commentarle sia al 349-238-6666, quindi il numero per i messaggi 349-238-6666, oppure come sempre sulla pagina Facebook di Effetto Nota, che è sempre lì per voi. Il giorno dopo la manifestazione dell'asta, Alfano riferisce in Parlamento e dice: bisogna evitare che la crisi innesca pericolose derive. La FIOM annuncia uno sciopero generale di 8 ore a novembre. Ministero degli Esteri, incontro tra Napolitano e Renzi, ma è ancora stallo sulla nomina del titolare della Farnesina dopo l'addio della Mogherini. Tremonti indagato, lui si difende e dice: non ho mai chiesto nulla a Finmeccanica. La lotta all'ISIS, battaglia a Kobane con i primi combattenti curdo-iracheni che giungono nella città siriana per combattere gli islamisti. A Napoli il TAR reintegra il sindaco De Magistris, che presiede subito la giunta. L'ultima parola sarà della Corte Costituzionale. Apple, l'amministratore delegato del colosso informatico, fa coming out e dice: essere gay è un grande dono di Dio. E poi la Disney che bacchetta l'Italia, la TV dei ragazzi afferma viene bocciata dal colosso americano. E per il calcio c'è il posticipo di Serie A con Lazio-Verona e capiremo come è iniziata la partita tra poco. Partiamo però adesso dagli scontri di ieri a Roma, dopo i quali il Presidente del Consiglio Matteo Renzi ha incontrato gli operai dell'AST, degli acciai speciali di Terni, no? L'azienda che rischia di chiudere. Li ha incontrati a Palazzo Chigi insieme alla Ministra dello Sviluppo Federica Guidi. Renzi ha assicurato: faremo le verifiche e poi gli atti saranno conseguenti. L'avvertenza dell'AST di Terni, sottolinea il Presidente del Consiglio, va separata dal confronto politico. Dopo 24 ore di polemiche, Angelino Alfano interviene in Parlamento ed esprime la sua solidarietà agli operai della AST e ai poliziotti rimasti feriti negli scontri di ieri. Si è trattato di un giorno brutto per tutti, ma non c'è mai stata una volontà del governo di colpire i lavoratori, ha assicurato il ministro dell'Interno, che ha fatto appello al senso di responsabilità di tutti. Dobbiamo evitare, esercitando un grande senso di responsabilità e valorizzando tutte le nostre capacità di attenzione e di dialogo, che il difficile momento di crisi possa rappresentare l'involontaria scintilla di conflitti e tensioni che rischierebbero di innescare pericolose derive. Su quanto accaduto ieri faremo verifiche e prenderemo atti conseguenti, ha assicurato anche il premier Renzi. I rapporti con i sindacati restano però tesi. Non chiediamo le dimissioni di Alfano, ma non succeda più, tuona il leader della FIOM Landini. La numero uno della CGIL Camusso chiede invece a Renzi di abbassare i manganelli dell'ordine pubblico e scusarsi con i lavoratori. Strumentalizzazione non ne abbiamo fatte, ci pare che invece il problema sia stato esattamente l'opposto, quello che le cariche di ieri hanno trasformato un'avvertenza alla pacifica protesta dei lavoratori in un tema di ordine pubblico. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Rivedere e condividere il piano industriale con l'azienda per garantire il futuro dei 2600 lavoratori e delle 1500 persone che lavorano nell'indotto. A rischio vi è un'intera città la cui storia è legata a doppio filo alle acciaierie nate 130 anni fa e ora di proprietà della tedesca ThyssenKrupp. Dopo mesi di presidi e scioperi culminati negli scontri di Roma, arrivano le rassicurazioni, sia dal Premier sia dal Ministero dello Sviluppo Economico. La società è disponibile a mantenere l'integrità produttiva produttiva del sito e a limitare gli esuberi, ha spiegato il ministro Guidi durante l'incontro con i sindacati. L'azienda ha confermato un livello massimo di esuberi, eventualmente quantizzabile in 290 esuberi. Rimangono sul tavolo, diciamo, all'incirca altre 140-150 unità. Apertura anche da Landini della FIOM. Abbiamo valutato positivamente le novità introdotte, abbiamo detto che siamo pronti quanto prima a sedersi a un tavolo. E intorno al tavolo il prossimo 6 novembre si siederanno tutti, governo, azienda e sindacati. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Nel frattempo in serata il Comitato Centrale della FIOM proclama 8 ore di sciopero generale che si svolgeranno a novembre. Il Comitato Centrale, come si legge in una nota, ha dato mandato alla Segreteria Nazionale di articolare lo sciopero in almeno 2 grandi manifestazioni nazionali da svolgersi indicativamente il 14 novembre a Milano e il 21 novembre a Napoli. E domani anche Genova scende in piazza per manifestare solidarietà ai colleghi di Terni. 4 ore di sciopero e un corteo verso il centro, da Cornigliano, storico quartiere operaio ormai aggrappato a quel che resta delle acciaierie. Domani mattina i metalmeccanici genovesi scendono in piazza per manifestare solidarietà ai dipendenti della ThyssenKrupp di Terni, dopo i tafferugli e le manganellate di Roma diventati un caso politico. Braccia incrociate nelle aziende della galassia di Finmeccanica, la Piaggio, la Fincantieri di Riva Trigoso, nei siti produttivi del Tiguglio. Una mobilitazione che assume significati e valenze generali, attorcigliando le avvertenze aperte da tempo e giunte alle fasi decisive ad altre centinaia di posti di lavoro in bilico in questo autunno denso di tensioni. Bruno Manganaro, il segretario provinciale della FIOM. Messaggio chiaro, siccome per noi si aprono partite difficili che si chiamano ILVA, che si chiamano Finmeccanica con la Selex, tutti devono sapere che noi quei posti di lavoro li difenderemo con intelligenza ma anche con determinazione. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Genova. E adesso una notizia che riguarda l'ex ministro Tremonti. Ci sono state delle perquisizioni in uno studio legale tributario milanese del quale è socio l'ex ministro dell'economia, nell'ambito dell'inchiesta che lo vede indagato per presunta corruzione. Sono stati inviati già oggi al Tribunale dei Ministri gli atti dell'inchiesta in cui sono indagati anche il socio di studio Enrico Vitali, l'ex presidente di Finmeccanica Pierfrancesco Guarguaglini e l'ex direttore finanziario del gruppo Alessandro Panza. Blitz dei carabinieri presso lo studio Tremonti, Vitali, Romagnoli, Picardi associati in via Crocifisso, disposto dai magistrati milanesi che hanno avviato un'indagine su una presunta tangente che Tremonti avrebbe ricevuto nel 2009 da Finmeccanica, e arriva anche la replica a stretto giro dell'ex ministro. Non ho mai chiesto, sollecitato nulla in nessun modo da Finmeccanica, anche per questo come sempre ho assoluta fiducia nella giustizia. L'indagine di natura ministeriale, secondo il Corriere della Sera, nel mirino una consulenza da 2,4 milioni che Giulio Tremonti, allora ministro dell'economia nel quarto governo Berlusconi, avrebbe incassato da Finmeccanica, controllata del Tesoro, in cambio dell'ammorbidimento della propria iniziale contrarietà al controverso ingente acquisto per 3,4 miliardi di euro nel luglio del 2008 della società statunitense DRS, fornitrice del Pentagono. Una presunta tangente, si legge nel servizio, che sarebbe stata veicolata dietro lo schermo di una parcella professionale liquidata da Finmeccanica a saldo di un'apparente consulenza su profili fiscali allo studio Vitali, Romagnoli, Piccardi associati. Seguendo il calendario, sottolinea Tremonti, ben prima di entrare nel governo insediatosi venerdì 8 maggio 2008 mi sono cancellato dall'ordine degli avvocati e sono uscito dallo studio in base ad atto notarile e perizia contabile. Ci sono rientrato solo nel 2012, un anno dopo la fine del governo, come prescrive la legge. Nel durante ho interrotto tutti i rapporti con lo studio. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora il reintegro di De Magistris dopo la sentenza del TAR. Come vi dicevo, ci vorranno tra 6 mesi e un anno in linea di massima affinché la consulta valuti le questioni sollevate dal TAR Campania sulla legge Severino in merito al caso De Magistris. Il sindaco di Napoli poi è stato oggi reintegrato ad un mese dall'ordinanza del prefetto Musolino ed è rientrato a Palazzo San Giacomo commosso, accolto d'applausi. Abbiamo sentito le sue parole all'inizio, poi magari le risentiremo, ma parliamo invece del Ministero degli Esteri, perché ancora nulla di fatto c'è sul nome del nuovo titolare della Farnesina dopo le dimissioni di Federica Mogherini, che è il nuovo alto rappresentante europeo. Chi sarà il nuovo ministro degli esteri? Domanda ancora senza una risposta dopo la partenza oggi di Federica Mogherini per Bruxelles, dove da sabato assumerà la carica di alto rappresentante europeo. Dall'incontro odierno tra il presidente della Repubblica Napolitano e il premier Renzi filtra solo la notizia di un primo scambio di opinioni sulla nomina del prossimo titolare della Farnesina, circostanza abbastanza sorprendente. Dell'uscita di scena della Mogherini si sa da 2 mesi. Il tempo a disposizione per identificarne il sostituto, o meglio sostituta, è stato comunque abbondante. Nel delicato gioco di incastri politici e di genere, i nomi in corsa restano quelli di Lapo Pistelli, Marina Sereni e Marta Dassù, mentre scende l'ipotesi dell'outsider Lia Quartapelle. Non è neppure da escludere una vacazio più lunga con l'interim degli esteri allo stesso Renzi. Federica Mogherini intanto si è congedata dalla Camera dimettendosi da deputata. Non è un addio ma un arrivederci, ha detto, promettendo di onorare la nuova carica europea portando con sé il background della grande tradizione federalista italiana. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora invece la politica, restiamo comunque in politica in senso più stretto, però c'è stata una telefonata e si è saputo oggi, ieri, tra Silvio Berlusconi e Matteo Renzi. A quanto raccontano fonti azzurre, l'ex presidente del Consiglio Berlusconi avrebbe sentito il capo del governo per assicurarlo riguardo le intenzioni di voler andare avanti con le riforme, rispettando dunque il famoso patto del Nazareno, che sarà al centro di un nuovo incontro che ci dovrebbe essere a breve tra i due leader. E adesso all'estero, a Gerusalemme, dopo una giornata di alta tensione, il governo israeliano ha deciso di riaprire, dopo averla chiusa, la spianata delle moschee, che era stata chiusa oggi appunto per motivi di sicurezza. E continua la lotta all'ISIS, primi combattenti curdo-iracheni che giungono a Kobane, la città siriana, per combattere gli islamisti. Rinforzi in vista per gli abitanti della città di Kobani. Oggi una decina di peshmerga iracheni sono entrati nella città al confine fra Siria e Turchia per dare manforte ai cugini curdo-siriani e respingere l'assedio degli uomini dell'ISIS. Altri rinforzi giunti dal Kurdistan iracheno sono stazionati dietro al confine turco in attesa di poter entrare a Kobane. I peshmerga sono arrivati dopo che Ankara ha ceduto alle pressioni americane e li ha lasciati passare attraverso il suo territorio. I combattenti portano in dote armamenti pesanti come richiesto dagli abitanti di Kobane, che stanno cercando di resistere da più di un mese agli attacchi degli uomini di al-Baghdadi. Il loro arrivo potrebbe segnare una svolta nelle sorti della città, che un paio di settimane fa sembrava sul punto di cadere nelle mani degli islamisti. Ma la scelta della Turchia di consentire ai peshmerga di entrare a Kobane è risultata sgradita alla Siria, che ha accusato Ankara di aver così violato la sua sovranità territoriale. Nicola Scevola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Spostiamo adesso in Africa. In Burkina Faso i poteri esecutivi e legislativi saranno assunti da un organo di transizione con l'obiettivo di un ritorno all'ordine costituzionale entro 12 mesi, così riferisce un comunicato del capo di Stato Maggiore delle Forze Armate. In pratica c'è stato un colpo di Stato in Burkina Faso, adesso il potere è nelle mani dell'esercito. Il coprifuoco è stato imposto su tutto il territorio. La cronaca ci riporta: in Italia sono state assolte dall'accusa di maltrattamenti ai bambini le tre maestre dell'asilo privato nel Paese delle Meraviglie di Pinerolo, in Piemonte. Lo ha deciso la Corte d'Appello di Torino pronunciandosi sulla vicenda culminata nel 2010 col sequestro della scuola. In primo grado erano state condannate a pene comprese tra 10 e 12 mesi, adesso sono state invece assolte. E in chiusura c'è Giovanni Capuano che ci aggiorna sulla partita iniziata da poco, no Giovanni, tra Lazio e Verona. Siamo in Serie A un posticipo. Chiudiamo la nona giornata e abbiamo iniziato da 27 minuti, 0-0 risultato, posticipo particolarmente importante. Siamo a Verona, Verona-Lazio, perché la Lazio cerca la quinta vittoria consecutiva, che significherebbe anche il terzo posto in solitario in quella grande marmellata che è la classifica alle spalle di Juventus e Roma, classifica che ha 7 squadre in un solo punto, che stanno iniziando un lungo campionato a parte per arrivare a quel terzo posto che vale l'ingresso alla Champions League, vale parecchio, vale tantissimo, soprattutto dal punto di vista economico, vale un assegno di almeno 30 milioni di euro. E quindi da oggi in poi bisogna guardare con grandissima attenzione alle sfide che fanno parte di questo secondo campionato. Dicevamo 27-28 minuti, anzi, a Verona sul cronometro, 0-0 tra Verona e Lazio. Fin qui non è una partita straordinaria. C'è stata una partenza aggressiva del Verona, poi la Lazio apparentemente ha preso il controllo del gioco, però non ci sono state occasioni. C'è stato un gol annullato al Verona con Toni, posizione di fuorigioco, che però era una posizione netta di offside, quindi è stata ben rilevata dall'assistente del direttore di gara. Questa è la gara che chiude la nona giornata, quella che ha visto la prima caduta della Juventus in questo campionato e che formalmente ha aperto un lungo duello con la Roma. Poi continueremo dopo, Giovanni, più tardi capiremo come procede questa partita. Intanto stavo vedendo come procedono i vostri messaggi, sia al 349-238-6666 sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte. E dice per esempio Walter da Perugia: No, questo è un altro messaggio che non riguarda questo argomento. C'è Sergio da Milano che si firma padre di tre figlie. Il presidente di Apple dice blasfemie, perché la notizia è che l'amministratore delegato di Apple ha detto: sono gay, sono orgoglioso di esserlo, è un dono di Dio. Dice: sono provocazioni, basta con questi gay, basta, ho tre figlie. Roberto, siamo d'accordo che lui fa coming out, ma addirittura che sia un dono di Dio, mi sembra che stiamo esagerando. Allora, gli etero cosa sono? Una disgrazia. Claudio, che si firma Claudio Etero, dice: sì, è un dono di Dio, se c'è amore. A tra poco. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E ancora vedo vari vostri messaggi alla pagina Facebook di Effetto Notte. C'è Diego che dice, a proposito dell'amministratore delegato di Apple, dice: a mettere in piazza la propria malattia ci vuole coraggio. Quindi Diego reputa una malattia essere gay. Crescenzo scrive: non credo che sia stato un dono di Dio. E poi Alessandra: ma non dovremmo parlare di dono ma di condizione umana, Dio non credo c'entri. Poi ci torneremo su questo argomento, ma adesso vi riassumo brevemente le notizie della giornata, come sempre dopo una pausa e poi con il primo ospite. Fiom all'attacco, 8 ore di sciopero, annuncia sciopero generale a novembre. E sull'Ast Renzi chiede verifiche sugli scontri di ieri. Alfano esprime in Parlamento solidarietà agli operai. Renzi e Napolitano, c'è stato un incontro ma ancora stallo sul nuovo ministro degli esteri. E poi le banche fanno paura alle borse, nuovo crollo di MPS, cala il PIL americano, la Banca Centrale Europea annuncia nuovi acquisti degli ABS. Il TAR reintegra De Magistris, atti inviati alla consulta, il sindaco intanto presiede subito la giunta, applausi in municipio. Inchiesta Finmeccanica, Tremonti indagato per corruzione, perquisizioni nello studio dell'ex ministro. Poi Israele che chiude la spianata delle moschee, ma poi la riapre per domani per questioni di sicurezza. I primi peshmerga entrano a Kobane sotto le bombe dell'ISIS, questa è la lotta che continua contro il movimento islamico. E poi il coming out di Tim Cook, abbiamo detto, amministratore delegato di Apple, che dice: orgoglioso di essere gay, è un dono di Dio. Ma adesso vorrei parlare con Stefano Folli, commentatore politico editorialista del Sole 24 Ore. Bentornato Stefano. Ciao, ciao Roberto. Dunque, abbiamo visto la situazione di questi giorni che si è un po' inasprita, no? Tra il governo e i sindacati, in particolare tra la leader CGIL Camusso e Renzi. Renzi che tratta un po' con sufficienza e il sindacato che si irrita, si alzano un po' i toni. Abbiamo sentito anche l'ultima polemica tra l'esponente del PD Pina Picerno, che ha detto la Camusso è stata eletta con tessere false, e poi dopo si è scusata. La Camusso che ha detto Renzi è stato messo lì dai poteri forti. E poi gli scontri di ieri a Roma, nella manifestazione dell'Ast, degli operai che rischiano tutti di perdere il lavoro, degli acciai speciali di Terni. Alfano oggi ha riferito alle Camere. Direi di cominciare a sentire che cosa ha detto Alfano. I fatti accaduti ieri in occasione del presidio tenuto in Piazza Indipendenza a Roma dalle maestranze della Ast di Terni in relazione alla vertenza aperta con la proprietà ThyssenKrupp hanno determinato in me la scelta immediata di venire qui e di non avere alcuna esitazione nel dichiarare, anche nell'incontro che ho avuto in serata con i rappresentanti delle sigle sindacali presenti in piazza a Roma proprio ieri, che quello di ieri è stato un brutto giorno per tutti. Quindi è stato ammesso che è stato un brutto giorno per tutti. Poi Alfano ha spiegato che c'era stato un fraintendimento, che sembrava che il corteo andasse verso la stazione Termini, che insomma è un luogo sensibile, diciamo, anche se Roma è disseminata di luoghi sensibili. Invece Landini ha detto, e i vari sindacalisti, no, non c'era intenzione di andare alla stazione. Comunque sentiamo Landini invece, che spera, auspica che la situazione di ieri non si ripeta più. Sì, facciano tutte le azioni che sono necessarie di chiarimento su quanto è avvenuto, anche in questo caso per essere nella condizione che non si ripeta mai più una situazione come si è ripetuta ieri. Renzi poi ha detto di abbassare i toni e questa è la risposta della leader CGIL Camusso. Io direi che il Presidente del Consiglio dovrebbe provare ad abbassare i manganelli dell'ordine pubblico, 500 lavoratori di uno stabilimento in grande difficoltà che da molti mesi lottano per il posto di lavoro, hanno subito le cariche della polizia. A me pare questo un segnale davvero pericoloso per una situazione economica di grande difficoltà. Quindi situazione economica in grande difficoltà, grande tensione. La FIOM ha annunciato in serata 8 ore di sciopero generale che ci saranno a novembre. Insomma, Stefano Folli, sono dei frangenti molto tesi. Chi è che deve abbassare cosa? Camusso dice che bisogna abbassare i manganelli, Renzi abbassiamo i toni. Beh, insomma, ieri è stato commesso un errore, un grave errore nella gestione dell'ordine pubblico, perché su questo non ha torto né la Camussi né Landini, perché insomma poche centinaia di lavoratori, anche ammesso che qualcuno avesse intenzione di andare verso la stazione Termini, ma non giustificano delle cariche così violente, perché occorre sempre in questi casi pensare a quali sono le conseguenze possibili. Noi siamo effettivamente in un momento di grande tensione politica che porta con sé anche delle tensioni sociali che finora sono state tutto sommato gestite bene, innanzitutto dal buon senso degli italiani, ma poi forse anche delle grandi organizzazioni di massa, perché ci vuole poco a trascendere, no, dalla situazione pesante che c'è nell'economia. E quindi il fatto che si siano usati questi manganelli un po' alla leggera effettivamente lascia pensare. Occorre stare molto attenti in futuro a evitare incidenti di questo genere. Anche Napolitano ha detto oggi bisogna che ci sia un'assunzione di responsabilità per contribuire a una maggiore coesione nazionale, quindi tu dici insomma tutti devono contribuire effettivamente, no, bisogna chiaro, riconoscere i torti. Certo. È chiaro che anche il Presidente del Consiglio deve un pochino misurare le parole, mi sembra, ecco, perché per amor di polemica, per amor della battuta che Renzi ha sviluppatissimo, alle volte si rischia di offendere l'interlocutore. In questo momento in cui io capisco il problema politico di fondo, no? Renzi vuole dimostrare di non essere condizionato dalla CGIL, vuole dimostrare che la vecchia concertazione è morta perché non serve più a governare una situazione di recessione. Vuole dimostrare che il potere di veto che le organizzazioni sindacali hanno avuto tanto, per tanto tempo sulle politiche dei governi, questo potere di veto non c'è più. Ecco, però c'è modo e modo, e credo che una certa maggiore attenzione verso le forme, verso il rispetto e naturalmente anche poi nella gestione delle situazioni di crisi sul piano dell'ordine pubblico possa aiutare un maggiore rispetto e quindi anche aiutare ad abbassare la tensione nel paese. Allora, sentiamo questo proposito. Già ieri Bersani, ex segretario del PD, che continua a dire non vogliamo la scissione, restiamo, insomma, è quello che cerca un po' di moderare la sinistra del PD, gli ha detto non accendiamo micce, e anche oggi è tornato a parlare. Un paese che è nei guai, ha un sacco di problemi, si stanno accendendo delle tensioni che devono preoccupare, quindi credo che sia il momento anche di darsi una calmata, di prendersi ciascuno le sue responsabilità, cominciare naturalmente da chi dà i messaggi fondamentali, no? Che toccano il governo di un paese che nelle difficoltà deve fare ogni sforzo per unire e affrontare i problemi assieme e non per fomentare divisioni. Quindi quello che dicevi un po' tu, Stefano Folli, quindi un linguaggio anche che Renzi, sebbene voglia far capire che voglia superare certi vecchi schemi della politica, delle relazioni sindacali eccetera, però ci vuole anche... Insomma, Renzi sulla cresta dell'onda, la Leopoldo è stato un successo, la sua linea così dinamica, così poco propensa a essere condizionato dai vecchi schemi e quindi anche dal sindacato o dalla vecchia politica, tutto questo è, diciamo, ha un certo successo, incontra un favore di opinione pubblica, però naturalmente divide il paese, questo è evidente, lo divide profondamente, ma soprattutto io credo che sia giusto evitare di alimentare delle tensioni che vanno al di là del necessario. Da questo punto di vista la dimostrazione di ieri a Roma, gli incidenti di ieri sono un campanello d'allarme. Io ti vorrei chiedere anche, Stefano Folli, allora oggi Berlusconi ha, o almeno sono indiscrezioni dalla riunione che ha avuto con i coordinatori regionali, ha detto che il patto del Nazareno continua ad andare avanti, tranquillo, procede senza intoppi. E sul Corriere della Sera oggi c'erano alcune dichiarazioni di vari esponenti della destra, intellettuali, anche chi ha contribuito a fondare Forza Italia, c'era Marcello Veneziani, Domenico Fisichella che è stato con AN, Giuliano Urbani che ha fondato Forza Italia anche lui, Marcello Pera che ha detto io voto Forza Matteo, Fisichella ha detto speriamo che ce la faccia almeno Renzi. Marcello Veneziani ha detto: vorrei essere stato anch'io la Leopolda. Insomma, sono tutti favorevoli a Renzi. Allora io ti chiedo, la busta numero 1, 2, 3 o 4, allora è perché Renzi, col suo buonsenso evidentemente, con quello che dice, la sua visione dell'Italia, della politica eccetera, riesce a creare un consenso trasversale, busta numero 1, oppure perché un uomo per tutte le stagioni, che non è diciamo, non ha un'accezione in genere positiva questa cosa, oppure perché è di destra come molti lo accusano di essere, oppure perché la destra non esiste più? Perché Renzi piace per esempio a questi esponenti della destra come Veneziani, Fisichella, Giuliano Urbani, Pera? Ma Renzi è molto trasversale, no? In Inghilterra abbiamo avuto prima la Thatcher che ha cambiato la destra e poi Blair che ha cambiato la sinistra. Ognuno poi giudicherà se nel bene o nel male. In Italia non abbiamo avuto niente di tutto questo perché Berlusconi non ha svolto la sua funzione di destra. Berlusconi non si è mai capito bene esattamente cosa fosse dal punto di vista della coloritura politica, tranne un personaggio che curava molto bene i propri interessi. Allora a questo punto Renzi si trova a dover giocare due parti in commedia. Deve fare il lavoro che fece la Thatcher, per esempio indebolendo i sindacati, ma deve fare poi il lavoro anche di Blair, cioè deve rappresentare una sinistra più moderna, più spregiudicata, meno legata ai vecchi schemi ideologici. Ecco perché Renzi piace un po' a tutti in questo momento, piace alla destra e piace a una certa sinistra, non a tutte naturalmente, piace a una certa sinistra più modernizzante. È una parte difficile perché appunto sono due i ruoli in commedia, quindi è difficile sostenerli entrambi. Per adesso Renzi ci riesce, aiutato anche dal fatto che non esiste un antagonista, no? Sul centrodestra Berlusconi ha completamente rinunciato a favorire un'aggregazione che sia alternativa a Renzi. Più passa il tempo, più di fatto lo appoggia, lo sostiene. Grillo è a sua volta in crisi e comunque non è, diciamo, realmente credibile come antagonista, come competitore elettorale, e quindi Renzi è aiutato dal fatto che non ha concorrenza. Questo è una cosa che può aiutare in una prima fase, certo alla lunga rischia di essere, insomma, di essere un problema per gli equilibri democratici, non perché sia una minaccia per la democrazia Renzi, ma perché una democrazia moderna si regge quantomeno su due schieramenti che si alternano, che si confrontano. Per chiudere, Stefano Folli, Mogherini andrà a diventare l'altro rappresentante della politica estera dell'Europa, quindi il suo posto diventa vacante. Sa che ci sono diversi candidate per lo più, a parte la Popistelli, poi le altre, Marina Sereni, Marta Dassù, mi pare che la giovane 32enne quarta pelle sia adesso fuori gara. Che ne pensi? Cosa penso di chi sì, sarà? Quale vedresti meglio, oppure secondo il retroscena cosa porterà a nominare chi? Ma io penso che ci sia qualche difficoltà nell'indicare il nome del ministro degli esteri, perché la spinta innovativa di Renzi in questo caso si scontra con l'esigenza comunque di garantire una gestione anche fondata sull'esperienza del Ministero della Farnesina, quindi evidentemente credo che il Presidente della Repubblica voglia avere, come insomma, prevede la prassi costituzionale, una certa voce in capitolo, e lo stesso Renzi non credo che abbia voglia di fare forzature, quindi la questione si sta allungando, saranno tempi un po' più lunghi, ma insomma tutto sommato è dal 1 novembre che la Mogherini entra in campo come alto rappresentante europeo della politica estera, quindi abbiamo ancora qualche ora per poter scegliere il ministro degli esteri in una forma tale da garantire anche, insomma, il ministero, che vuole essere guidato da una persona di esperienza, una persona che dia certe garanzie, e credo, mi sembra di capire, che il Quirinale voglia dar corpo a questa esigenza, e Renzi troverà sicuramente un accordo per scegliere il ministro nelle prossime ore. Io credo potrebbe essere possibile che si prendano il fine settimana per riflettere, ma chissà che domani non ci facciano una sorpresa. No, ma può darsi, ma comunque, insomma, non è una cosa così rilevante, certo. No? Che sia domani o sia lunedì mattina, prima o poi non cambia molto, il nome uscirà dal cilindro. Grazie. Anche perché, insomma, il ministro degli esteri, insomma, oggi è un po' meno rilevante di quanto non fosse qualche anno fa, no? La politica estera fa il Presidente del Consiglio il più delle volte. Certo, infatti si parlava anche di un interim di Renzi, vi staremo a vedere. Grazie Stefano Folli. Ciao, a presto. Ciao, ciao, buona serata. E adesso ci prendiamo una pausa, vedevo altri vostri messaggi, per esempio dice Dario, poi li rileggiamo quando ci sarà l'ospite per discutere questo argomento. Ciao, io sono gay e si sta un po' esagerando, dice. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi, continuiamo a guardare i vostri messaggi sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte, poi quelli che arrivano al 349-238-6666, sul coming out dell'amministratore delegato di Apple. Luca dice di sicuro se il suo intento era far discutere, creare un po' di dibattito, ci è riuscito, l'importante Roberta che ora non inviti Giovanardi per chiedere il suo parere, grazie. Successe nel lontano 2011 mi pare, 2012 di lì, uno scandalo senza fine che poi ha portato fortuna anche a vari programmi che hanno fatto cavalli di battaglia, ma adesso vi riassumo le notizie del giorno. Il giorno dopo la manifestazione dell'asta, Alfano riferisce in Parlamento, esprime solidarietà agli operai e dice alle Camere bisogna evitare che la crisi inneschi pericolose derive. La FIOM intanto annuncia uno sciopero generale di 8 ore a novembre. Ministero degli Esteri, incontro tra Napolitano e Renzi, ma ancora è stallo sulla nomina del titolare della Farnesina, chi dovrà sostituire Mogherini. Tremonti indagato, lui si difende e dice non ho mai chiesto nulla a Finmeccanica. Lotta all'ISIS, battaglia a Kobane con i primi combattenti curdo e iracheni che giungono nella città siriana per combattere gli islamisti. A Napoli il TAR reintegra il sindaco De Magistris che presiede subito la giunta, l'ultima parola sarà poi alla Corte Costituzionale. Apple, amministratore delegato del colosso informatico, fa coming out e dice essere gay è un grande dono di Dio. E poi il calcio col posticipo di Serie A tra Lazio e Verona, forse c'è un aggiornamento 1-0 per la Lazio, questo al momento. Adesso aggiorniamoci sull'Europa. Europa 24 notte. E lo facciamo con Sergio Nava, ciao Sergio. Ciao Roberta. Che ci parlerà tra pochissimo di questo passaggio di consegne che oggi c'è stato tra l'ex presidente uscente della Commissione Europea Barroso e l'entrante che è Juncker. Però c'è una notizia molto importante. Sì, di pochi minuti fa, Roberta, si è raggiunto finalmente l'accordo sul gas nella trilaterale tra Russia, Ucraina ed Unione Europea. I dettagli sono ancora da capire, da comprendere meglio, però è un'intesa molto importante anche perché riguarda non solo l'Ucraina direttamente ma anche noi, perché una qualsiasi, lo sappiamo bene, l'abbiamo sperimentato negli anni scorsi, una qualsiasi crisi tra Russia e Ucraina sul gas ha impatti diretti anche sull'approvvigionamento di gas in Europa, il nostro riscaldamento e quindi se questo accordo c'è ed effettivamente verrà rispettato una volta tanto, sono buone notizie, possiamo dire. Quindi riescono a fare degli accordi sul gas, poi nel frattempo continuano gli scontri in Ucraina, bisognerà vedere, insomma, bisognerà capire. Le elezioni di domenica sicuramente sono state un po', come dire, non molto ben accolte dalla Russia per i risultati. Perché hanno vinto i filo occidentali, no? Quelli molto filo occidentali, per cui insomma di certo resta un conflitto tra virgolette sospeso / congelato, anzi è forse troppo ottimistico dire così, però di sicuro va attentamente monitorato perché è una situazione ancora in grande evoluzione. Intanto però è stato raggiunto questo accordo sul gas, come dicevamo. Invece per quanto riguarda il passaggio di consegne, Barroso che se ne va, che era lui che aveva lanciato un po' l'ultimo sfogo verso l'Italia, no? Qualche giorno fa. Sì, finalmente se ne va, potremmo anche dire, perché visto da una, devo dirlo, insomma, coprendo da tanti anni l'Unione Europea, ma non è solo la mia opinione, ma anche di tanti colleghi a Bruxelles, Barroso è stato veramente un presidente molto mediocre della Commissione Europea. I suoi 10 anni non sono stati certamente soprattutto da che punto di vista, Sergio? Diciamo che non ha saputo sicuramente, ha burocratizzato molto l'Unione Europea, l'ha molto resa supina agli interessi tedeschi, questo è un dato di fatto, nel senso prima franco-tedeschi e poi tedeschi, franco-tedeschi quando c'era l'asse Merkel-Sarkozy, poi Sarkozy è venuto meno, è rimasta solo la Merkel. Non ha saputo difendere, a differenza di alcuni suoi predecessori, un'indipendenza politica di pensiero, politica tra virgolette, perché la Commissione in teoria non sarebbe un organismo politico, però diciamo una propria indipendenza a Bruxelles, l'ha piegata ad altri interessi, non è stato così terzo come sarebbe dovuto essere. e bisogna dire appunto che l'Europa sì, si è dotata con lui anche di strumenti dopo la crisi anche importanti, però l'Europa si è fatta trovare molto impreparata di fronte a questa crisi e soprattutto arriviamo alla fine di un mandato Barroso con un euroscetticismo montante, quindi sotto questo punto di vista è un fallimento totale. Juncker fa invece ben sperare? Juncker, a differenza di Barroso, ha sicuramente un profilo più alto. Barroso arrivò nel 2004 come un semi sconosciuto capo di governo portoghese, il cui principale merito era stato soprattutto quello di ospitare il famoso vertice della Azzorre con Bush e Blair ai tempi della guerra in Iraq. Juncker invece è un politico di un piccolo paese come Lussemburgo, però che sta sulla scena europea da 20 anni, molto longevo, ha uno spirito federalista, è della famiglia politica della Merkel, però lasciò l'Eurogruppo alcuni anni fa in polemica con Merkel e Sarkozy, e sicuramente ha più spessore. Restano molti punti di domanda sulla struttura che ha dato alla futura Commissione europea, questo gioco di incastri tra vicepresidenti, diciamo, che stanno un livello sopra gli altri commissari, no? L'incastro tra Katainen, Dombrovskis e Moscovici, ad esempio sul fronte economico. Quindi restano dei punti di domanda, ma sulla caratura è sicuramente superiore a quella di Barroso. Nell'ultimo minuto, a raggiungere Juncker andrà anche Mogherini, no? La nostra, sì, esatto, ex ormai ministra degli esteri. Oggi ha dato le dimissioni da deputata, era anche deputata, ha fatto un discorso in cui ha detto che porterà lo spirito federalista, la tradizione federalista italiana in Europa, e resta però lo stallo sul suo successore. Devo dire, su questo è abbastanza curioso notare come sia stato deciso 2 mesi fa, la nomina di Mogherini sia stata decisa 2 mesi fa a Bruxelles, e resta, insomma, è abbastanza sorprendente in 2 mesi il governo non abbia tirato fuori un nome. Questo, devo dire, lascia abbastanza sorpresi. Effettivamente sì, un punto interrogativo. Con questo ci lasciamo allora. Grazie Sergio. Grazie Roberto. Ciao Sergio. Ciao. Europa 24 notte in collaborazione con Euronet Plus. Adesso aggiorniamo chi viaggia e poi con il prossimo ospite dibattiamo sull'argomento sul quale state scrivendo i vostri messaggi. Tra poco. Effetto notte. Le notizie in 60 minuti. Ve le riepilogo brevemente le notizie, a partire senz'altro dalla FIOM che torna alla carica e annuncia per novembre uno sciopero generale di 8 ore. Intanto Renzi chiede verifiche su quello che è successo ieri a Roma. Alfano ha espresso solidarietà agli operai e ha riferito poi alle Camere. C'è stato l'incontro Renzi-Napolitano oggi, ma è ancora stallo sul nuovo ministro degli esteri dopo che Mogherini andrà alla Commissione europea. Se ne parlava poco fa, effettivamente non c'è stato tempo da 2 mesi a questa parte di nominare un nuovo ministro degli esteri. Poi il TAR che reintegra De Magistris a Napoli, atti inviati alla consulta che deciderà poi alla fine su questo ricorso che per il momento è stato accolto dal TAR. Il sindaco presiede subito la giunta, oggi applausi in municipio. Poi c'è l'inchiesta di Finmeccanica con Tremonti indagato per corruzione per una tangente perquisizioni nello studio dell'ex ministro. E ancora i primi peshmerga che entrano a Kobane, quindi combattenti curdo-iracheni sotto le bombe dell'ISIS, continuano la lotta al movimento islamico integralista. E il coming out di Tim Cook, amministratore delegato di Apple, che ha detto: orgoglioso di essere gay, è un dono di Dio. E proprio di questo adesso parliamo, e ne parliamo con Tommaso Cerno, che saluto. Benvenuto Tommaso. Buonasera. Direttore del Messaggero Veneto. Ti leggo giusto velocemente alcuni dei messaggi che sono arrivati nel frattempo. Per esempio Luca dice: di sicuro se il suo intento era far discutere, creare un po' di dibattito, ci è riuscito. L'importante, in questo caso rinomina Giovanardi. Franco dice: come se io fossi orgoglioso di avere i capelli rossi piuttosto che castani, neri o biondi, comunque non ha fatto male a dire di essere gay. E Giorgio dice: fino a che sarà qualcosa da dire, vorrà dire che che l'uguaglianza è lontana. Alessandra dice: ma non dovremmo parlare di dono ma di condizione umana, Dio non credo che c'entri. E poi Crescenzo dice: non credo che sia stato un dono di Dio. Diego dice: a mettere in piazza la propria malattia ci vuole coraggio. Ancora altri: se essere gay è un dono di Dio, allora Dio ci vuole tutti estinti, scrive Lorenzo da Treviso. Giorgio, no, era Dario che dice: ciao, io sono gay, però si sta un po' esagerando. Mentre Claudio si firma etero e dice: sì, è un dono di Dio se c'è amore. Tommaso Cerno, tu che sei gay dichiarato e sei arrivato a quella carica così importante di direttore di un giornale con il Messaggero Veneto. Faccio bene al giornalista, anche se fossi etero magari sarei arrivato. No, sono tutti commenti giusti che fanno capire chi nella sua, come dire, contraddizione della malattia, ritenendola tale, chi rispetto a una divinità di cui non sappiamo con certezza l'esistenza, mentre dell'omosessualità ne verifichiamo quotidianamente i fatti, sia di chi la ritiene talmente normale da non dover essere esibita, fa parte della sfaccettatura del dibattito di un paese normale. Quindi diciamo che si sta normalizzando la cultura di un paese che è, come dire, multiforme, che è giusto che preveda posizioni diverse e alcune anche estreme. A questo punto va detto che la dichiarazione di omosessualità, che secondo alcuni addirittura è legata al fatto di stupire, forse per mancanza di appeal in questo momento di chi la fa, è al centro di un dibattito che mostra come l'omosessuale in Italia non sia più qualche cosa che tu releghi ad ambienti particolari, ma sia nella quotidianità parte della vita, il tuo farmacista, il tuo idraulico, il tuo medico, il tuo vicino di casa, che a differenza dei capelli biondi, rossi o marroni che si vede essere tali, a volte non si vede, e nel non vedere, quindi nel non essere certi della sua esistenza, sta l'altro aspetto della normalità, che è la sessualità delle persone, quindi l'amore che trasmettono e che ricevono da altre persone fa parte della vita comune anche di Giovanardi, nel senso che Giovanardi, per quanto lo posso ascoltare io, è forse degli omosessuali il migliore alleato, nel senso che ogni volta che in televisione, alla radio, sui giornali esprime il suo pensiero estremizzandolo, perché Giovanardi rimane una persona intellettualmente attiva e quindi molto spesso parla per ragioni politiche, non fa altro che scatenare quello stesso dibattito, pur al contrario, che scatena la dichiarazione di omosessualità di un grande VIP. Quindi è una specie di gay pride ambulante in un paese dove ci è arrivato persino Berlusconi. Vero, tra l'altro si sta creando questa discrepanza, questa crepa col nuovo centrodestra proprio su un tema come questo, magari dietro c'è altro politicamente, però... Ma guarda, c'è una cosa banale, il fatto che Berlusconi in qualche maniera ritenga Alfano talmente inutile da poter dichiarare la propria apertura alle unioni gay pur schiacciarne l'unico senso politico che potrebbe avere, cioè far vacillare il governo di Renzi su un diritto civile. Ma se serve a questo Alfano, ben venga Alfano, nel senso che è la cosa più positiva del suo ministero che lui abbia potuto fare, cioè trasformare la destra berlusconiana mimetizzata per anni dentro un colore leghista estremo, in qualche maniera bacchettona, ipercattolica, in una destra liberale, anche se la ragione può essere poco nobile, cioè quella di dire a Renzi: tengo su io il governo se questo signore te lo vuol far cadere. Cioè l'accidente per cui qualcuno trasforma il suo pensiero in un pensiero moderno è comunque insignificante rispetto al risultato, cioè Berlusconi parla bene dei gay dopo 20 anni in cui è stato zitto o ne ha parlato in altri termini. Quindi anche trovare una ragione positiva a questo ministro dell'interno è un fatto positivo, e gli omosessuali portano allegria evidentemente, e anche questa novità di pensiero, quindi la ragione conta poco, conta il risultato. Dopodiché il dibattito deve rimanere ampio, non è vero che tutti siano d'accordo sulle unioni civili, non è vero che tutti siano d'accordo o debbano essere d'accordo su ciò che ne deriva. Un paese moderno è un paese che discute, ma dove il diritto di un singolo vale tanto quanto privato il diritto di tutti, cioè se un solo cittadino è privato dei diritti la democrazia non è compiuta e quindi nell'avere opinioni diverse è giusto che i diritti siano però uguali, diritti uguali e opinioni diverse. Senti, tra l'altro a chi chiede che motivo aveva di dirlo apertamente, lui in questa lettera che è aperta, che pubblica su Bloomberg Business Week, Cook, Tim Cook, che ha 53 anni, dice: non mi sono mai esposto pubblicamente, nel corso della mia vita personale ho cercato di mantenere un certo livello di privacy, ho origini umili, non cerco di attirare l'attenzione, però allo stesso tempo credo profondamente nelle parole di Martin Luther King, che ha detto: cosa stai facendo per gli altri? Quindi è come se lui l'avesse fatto dicendo: guardate, uno che è arrivato a questo punto lo è tranquillamente, in questo modo aiuta chi magari è ancora schiacciato dalla paura, dalla discriminazione, no? Senza dubbio, il fatto che qualcuno che ha un ruolo pubblico di maggiore o minore misura esponga se stesso non è esibizionismo, ma è un ombrello contro chi ha il diritto invece di vivere senza mostrarsi a tutti i costi, perché vivrebbe nella sua quotidianità un'invadenza e un pericolo che altri non corrono, e quindi contiene in sé, in questa sua affermazione di libertà di pensiero, di libertà di espressione nella sua vita, in qualche modo il germe di un paese che migliora. È come quando tu affermi un diritto universale per altri sapendo che a te non ti colpisce il problema. A me è capitato varie volte di essere insultato da omofobi per cose che ho scritto, per cose che ho detto, e io ho risposto sempre con molta forza, non perché avessi paura di loro, ma perché mi rendevo conto che se quelle stesse accuse, anziché a me che ho le spalle larghe e che in qualche maniera non mi scompongo di fronte a queste miserie, fossero capitate a persone che non avevano tale forza, forse la mia parola avrebbe aiutato loro. Quindi non era rivolta a chi insultava, ma a chi veniva insultato per via traversa, in qualche modo attraverso di me. E quindi queste espressioni sono importanti. Io mi auguro che si moltiplichino anche in Italia, che tocchino anche il grande ambiente in cui ancora è tabù, cioè quello dello sport. È inimmaginabile che nello sport italiano tutti siano eterosessuali e felicemente sposati. Quindi prima o poi arriveremo anche lì. Tommaso Ceano, io ti ringrazio, hai dato anche molte risposte a domande, tante che sono arrivate attraverso i messaggi. A presto Tommaso, buona serata. Grazie a voi, buona serata. Ciao Tommaso Ceano. E ora con Giovanni Capuano procediamo verso Verona-Lazio, che mi sembra che prosegua bene per la Lazio, Giovanni. Sì, prosegue benissimo, perché prosegue con la Lazio avanti per 1-0, siamo secondo tempo appena cominciato, siamo al quarto minuto e ha deciso di fatto l'unica vera occasione del primo tempo, nata da un grave errore della difesa del Verona, un errore di Moras che ha completamente lisciato il pallone molto semplice all'interno della sua area di rigore e ha finito per smarcare solo davanti al portiere Lulic, e Lulic ha controllato, ha battuto il portiere del Verona, dunque Lazio 1-0. Verona che aveva cominciato così, e cioè con un liscio della difesa, anche la partita 7 giorni fa contro il Milan, quindi evidentemente non è un buon momento per la squadra di Mandorlini. 1-0 per la Lazio, che in questo momento sta raccogliendo la quinta vittoria consecutiva. La classifica si chiudesse così, dice: Juventus Roma 22, Lazio 18 punti. Beh, e quindi è sicuramente un salto importante. Grazie Giovanni Capuano, grazie molte per questo aggiornamento, io vi aggiorno invece tra poco.